Friuli nel mondo. Campane del Friuli. 25esima trasmissione dedicata agli emigrati. In ogni paese del Friuli un campanile, e su ogni campanile un concerto diverso di sacri bronzi. Una gara, addirittura, a chi lo costruisce più alto e più bello. Un'emulazione che tende in ogni campo al progresso. C'è chi vanta la scuola più razionale, il caseificio più attrezzato, la sede più decorosa del comune. Spirito di campanile, insomma, come vuole la frase convenzionale. Questo doppio festoso salutò il 3 novembre 1918 l'arrivo dell'esercito di Vittorio Veneto nella città percossa dal sibilo delle ultime fucilate. Avvolse quasi sudario gli ultimi caduti nel generoso tentativo di scacciare gli invasori. Sono le campane del santuario della Madonna delle Grazie di Udine, le uniche non asportate in quel triste periodo per intercessione del parroco che era a contatto col comando austriaco insediatosi nello stesso palazzo, attiguo al santuario, che aveva ospitato il comando supremo italiano. Campane che appartengono alla storia non meno che alla leggenda, come la Campane d'Arint, la campana d'argento, di Fresis in Carnia, datata 1358, antica quindi di 6 secoli, la più antica del Friuli. Rinvenuta in località Fondasio, dove la tradizione addita la voragine che avrebbe inghiottito il paese in tempi remoti, fu occultata in un pozzo per sottrarla alla razzia sacrilega. Consegnata agli occupanti per tema di rappresaglie, fu poi inseguita fino a Pola dal vecchio fabbricere, al quale veniva restituita incrinata sulla testa in considerazione della fedeltà dell'uno, della vetustà dell'altra. La sua voce scende dall'incompiuto campaniletto dedicato ai caduti di 2 guerre. Fra i nomi, quello di una donna perita in un bombardamento a Torino. Oltre una ventina sui 200 abitanti di Fresis, i quali, per mancanza di mezzi, non di fede, non hanno potuto sciogliere il voto verso i loro morti. Fede ce n'hanno i carnici, benché in lotta diuturna con la terra scarsa e avara, siano costretti a battere le vie dell'emigrazione mentre le loro donne sopportano fatiche da calvario. Ne sia conferma la campana maggiore della pieve di Corto. Anch'essa nella storia del paese. Rimossa sotto gli occhi in lacrime dei montanari, fu precipitata dalla cella dell'antichissima torre nel 1918. Una rosa di frantumi e di schegge. I più grossi asportati, le schegge raccolte e riposte nelle case, accanto al lumino della Madonna, alimentato per deficienza d'olio con la pece dei pini. A liberazione avvenuta, i reduci della vallata s'accordano per affidare ad una campana votiva la memoria dei compagni che non sono tornati. 10 anni dura la raccolta dei fondi e vi contribuiscono anche gli emigrati che sono legione. Un giorno parte finalmente dalla pieve un carro alla volta della fonderia udinese che l'aveva modellata, avendo cura di incidere torno torno i nomi dei 105 caduti del comune di Ovaro. Quel carro, insieme con le schegge salvate, trasportava anche i domestici bronzini e oggetti d'argento offerti dalle madri affinché la fusione riuscisse migliore. Al suo primo rintocco, una notte d'agosto striata di stelle cadenti, risposero i fuochi delle malghe circostanti, le campane di tutti i paesi del canale di Corto. Tra pace ai morti, conforto ai vivi. Vivos voco, mortuos plango, fulgora frango. Ripete un'iscrizione frequente sulle campane. Chiamo i vivi, piango i morti, spezzo le folgori. Mein Leben und mein End steht alles in Gottes Hand. La mia vita e la mia fine stanno nelle mani di Dio. Così la campana fusa nel 1556 dal tedesco Ambrogio Pfeffer per il Duomo di San Daniele del Friuli, anch'essa salvata dalla requisizione e squillante all'arrivo dei primi soldati italiani. Ore 14 del 4 novembre 1918, ora è giorno in cui, ad ogni ricorrente anniversario, scioglie la voce a ricordare l'evento. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso dello eterno consegio. La prima terzina della preghiera di San Bernardo alla Vergine si legge sulla campana dantesca di Gemona, offerta probabilmente al Duomo della città ospitale nel 1423, nel primo centenario del Latadino. Precipitata da sé, a differenza delle altre, miracolo della Madonna a cui è dedicata, insensibile ai reiterati colpi di maglio, vide gli stessi soldati inginocchiati al suo passaggio, confusi con la popolazione orante. Fu infine restituita senza voce e collocata al lato dell'acqua santiera nel Duomo Glemonese.